Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci pronti per il soundcheck numero 371 qui su Radio 24 dal Groove Master Studio. Buonasera a tutti voi in contatto e buonasera Silvia Barba. Ciao, ciao a tutti. Allora, ieri lo abbiamo detto, mia cara Silvia, oggi presentiamo due album nuovissimi. Forse, sì, sono stati pubblicati negli store americani di iTunes e dei reparti digitali, ma non ancora nel nostro paese. Quindi sono felice di anticipare il suono di due meravigliosi musicisti, un veterano che ha fatto la storia del jazz e della musica, eccellente producer, ma anche il mio maestro, e quindi sono felice come una Pasqua di vedere che il mio amico Ben Sidran continua a essere in attività e lo fa con grandissimo entusiasmo, anche perché supportato dal lavoro di suo figlio Leo Sidran, che oggi è anche un eccellente producer. E poi l'album nuovissimo di uno dei miei batteristi preferiti della nuova generazione, che è il formidabile Nate Smith. Beh, due belli album che io ascolto con te per la prima volta, devo dire, insieme ai nostri ascoltatori, perché queste anteprime ce le hai solo tu. Noi poveri comuni mortali dobbiamo ascoltare il soundcheck da questo momento, però anche tu potrai usufruire di queste note. Grazie. Siamo pronti. Allora, direi di iniziare con Ben Sidran, intellettuale del jazz, pianista, cantante, nato a Chicago, sangue ebraico nelle vene, musicista completo, ma anche docente di musica, ha scritto tantissimi libri importanti per tutti gli appassionati di jazz, non solo dei veri saggi, mi hanno fatto capire tante cose, ho imparato tanto da lui. Ieri proprio abbiamo parlato dei bravi maestri e fra i miei preferiti Nominato per primo, ne ho avuti tanti, ecco. Ancora ne avrò, e quindi importante Ben Sidran, così come lo è stato Renzo Arbore per me, per la televisione, la comunicazione e anche lo spettacolo. Quindi con Ben ho imparato a produrre musica e ancora una volta arriva da Ben Sidran una lezione di come si possa fare musica nel 2017 con il sorriso sulle labbra, con tutto quello che succede nel mondo, e per un musicista che senz'altro non si sarebbe aspettato come tanti anche l'elezione di Donald Trump. Sono rimasti scioccati e non poco. E infatti lui me lo ha detto al telefono: ti mando questo album che è senz'altro l'album più politico fra quelli che ho realizzati, e infatti fra i vari brani c'è anche una composizione che è proprio dedicato a Donald Trump e anche scritto sulla copertina. Ma lo ascolteremo più tardi. Invece vorrei iniziare l'ascolto di questo Picture Him Happy, album prodotto da suo figlio Leo proprio nello studio, quello di Brooklyn, dove tra l'altro ho realizzato con lui poco più di un anno fa Fun Slow Ride. Il brano è proprio Big Brother, e anche qua c'è una certa vena, non dico polemica, ma politica. Beh, nel senso, is watching you. Esatto, attenzione a quello che fai. Attenzione a come vi muovete e anche quello che dite al telefono, perché c'è sempre qualcuno che vi sta spiando e vi sta guardando. Ben Sidran è tornato con Picture Him Happy, il brano è Big Brother, qui al Soundcheck di Radio 24. Sì, stiamo presentando il nuovissimo album appena pubblicato negli Stati Uniti del maestro Ben Sidran, si intitola Picture Him Happy e il brano era Big Brother. E naturalmente appena pubblicato, una rivista importante come il Downbeat, forse la più prestigiosa e seguita proprio dai musicisti negli Stati Uniti, perlomeno quelli che propongono jazz e cose affini, al Downbeat hanno subito rilasciato una recensione fantastica. Molto bella, dice appunto che Ben Sidran è la voce della sua generazione, proprio perché la musica non è soltanto un riflesso delle nostre vite, ma è un modo per capirle, per comprenderle. E nel concept di questo album Ben Sidran dichiara apertamente che la sua musica è fatta per le persone che hanno scelto di stare bene nonostante le condizioni avverse dei tempi che ci circondano. E quindi se Big Brother is watching you, e quindi bisogna stare attenti a qualsiasi cosa si faccia, piuttosto che un'elezione come un presidente americano non voluto dagli intellettuali, dalle persone che hanno capito che l'apporto dell'amministrazione Obama aveva aperto delle strade, non tutte evidentemente, ma che comunque con questa nuova elezione qualcosa cambierà, purtroppo in negativo per loro e per tutti coloro che hanno una visione della vita un po' diversa da quella categorica e populista del nostro, penso, dico anch'io, nostro nuovo presidente Trump, perché influenzerà anche le nostre decisioni. Assolutamente sì, e il mio amico Ben Sidran adesso se la sta spassando, perché come spesso fa in questo periodo, siccome lui vive a Madison, Wisconsin, e in questo momento credo che a Madison ci siano tipo 50 metri di neve, come spesso fa, come fa da anni, adesso si trova in Messico con sua moglie Judith. E quindi fa bene. La cosa che mi fa impazzire è che è stato pubblicato l'album e invece di andare in giro a fare promozione se n'è andato in vacanza in Messico. Sverna praticamente lì e poi tornerà sul territorio statunitense, credo, a fine marzo. Fa sempre così. Ma ormai è un uomo che si gode la vita. Si gode la vita, se lo può permettere. Ha prodotto, pensa, oltre 60 album a suo nome, ma anche per altri musicisti con la sua Go Jazz, e io sono onorato perché di farne alcune parte. Perché alcune produzioni le ha prodotte anche per me. E in questo nuovo album ci sono Ben Sidran piano e voce, Leo Sidran alla batteria ma anche producer del disco, Will Lee al basso elettrico, Will Bernard alla chitarra, John Ellis al sax, Moses Petro alle percussioni e Trixie Waterbed alla background vocal, quindi ai cori. Il prossimo brano è un tributo al maestro Moses Ellison, si intitola Two Much Too Late, Ben Sidran. Soundcheck. Il suono della musica. E sì, oggi stiamo presentando il nuovo album di Ben Sidran intitolato Picture Him Happy, qui al Soundcheck di Radio 24, pubblicato per la sua etichetta discografica, realizzato lì nello studio di Brooklyn, New York City, e prodotto da suo figlio Leo. E naturalmente proprio in quello studio abbiamo realizzato anche gran parte della produzione dell'album Fans Low Ride per Rope Dope, e qui c'era proprio Ben Sidran che con il suo spoken words ha illuminato questa composizione intitolata Let the Children, dedicata ai bambini dell'UNICEF, organizzazione per la quale io mi prodigo facendo quello che posso. Fai bene. Beh, tra l'altro mi piace anche la definizione che ne hai dato di Ben Sidran prima nel fuori onda, il rapper del jazz. Rapper del jazz. Pensa che io gli ho visto fare delle performance dal vivo quando facevamo i concerti insieme, e lui aveva l'abilità di tenere un groove sul pianoforte senza perdere un beat continuava a raccontare storie infinite con uno swing impossibile, proprio come fanno i rapper, però con lo stile tipicamente old school di un musicista che ormai è una leggenda per tutti coloro che seguono le sue imprese. Io lo considero veramente il musicista più cool del jazz contemporaneo da tempo, e la cosa che mi dispiace tantissimo è che per esempio un festival come Umbria Jazz non lo ha mai invitato. Questa è una cosa che io, fra le altre, non perdonerò mai a Carlo Pagnotta. Ma tu scrivi una mail a Carlo Pagnotta. Ma che scrivo? Carlo... Ma neanche la legge, la cestina è media da me. Come vedi il mio nome è la cestina. Non credo. Ma vedrai. Comunque a me dispiace, no? Perché invece a parte che è una band pazzesca, ogni volta fa delle tournée europee infinite con grandissimo successo, in Italia invece... Viene spesso in Europa, non in Italia. Io lo invito. Quando ci sono i miei concerti ho la possibilità, lo invito, perché per me calcare il palcoscenico con lui è sempre un sogno che si realizza. Poi mi mette di buon umore, è un intellettuale, si impara sempre qualcosa. Io spero che venga invitato prestissimo nei grandi festival italiani, un musicista che merita grandissima attenzione. Dai, l'hai detto in radio, qualcuno avrà percepito questo consiglio. Speriamo. Allora, stavamo parlando proprio di Ben Sidran, che ha inserito in questo album una composizione che mi ha detto gli è venuta di getto. Spontanea. Freestyle. Assolutamente dedicata a Donald Trump, l'ho anche scritto fra le note di copertina, e come poteva intitolare un brano così? Another Old Bull, un altro vecchio toro che è arrivato e adesso vedremo che cosa combinerà col suo cinismo e la sua capacità assolutamente fuori dal comune di rendere antipatica qualsiasi dichiarazione che fa. Vabbè, questa è una tua opinione personale, ma no? L'ho letto tra le righe. L'hai letto fra le righe. Senz'altro lo pensa anche Ben Sidran. Another Old Bull qui al Soundcheck Radio 24. Poi preparatevi perché facciamo una piccola pausa e arriva il suono potentissimo di uno dei migliori batteristi di oggi, che è Nate Smith. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eh sì, segnatevi questo nome, si chiama Nate Smith, uno dei migliori batteristi della nuova generazione, suona di tutto e suona tutto benissimo e lo ha fatto con le grandi star del jazz e oggi si diverte anche con l'hip hop e i grandi artisti del contemporary R&B. Ultimamente è stato notato al Monk di Roma per una performance in duo con il vocalist José James e uscendo dal Monk io sentivo i commenti, i musicisti parlavano senz'altro più di Nate Smith che di José James, a volte succede. Succede, è stato il protagonista di quel progetto là. Ebbene, questo era Skin Step, il brano che anticipa la pubblicazione di questo album intitolato Kinfolk, che poi è il nome del progetto sonoro che Nate Smith guida insieme a altri formidabili performance ormai da qualche anno lì a New York. L'album si intitolerà Postcards from Everywhere e arriveranno un sacco di cartoline anche qui nel nostro Groove Master Studio dopo l'airplay di questi primi brani, perché a me il disco, io lo sto aspettando, non vediamo l'ora. Questi tre brani che mi ha mandato la Rope Dope mi hanno fatto impazzire, quindi questo era Skip Step. Ma adesso, per chiudere anche questa puntata del Soundcheck dandovi appuntamento a sabato prossimo alle 19:15, spero che tu possa essere ancora con noi, Silvia. Io lo spero anch'io, mi inviti di nuovo. Quante cose hai da fare? Un pochino, ma troverò il tempo giusto. Dai, magari facciamo una bella reunion anche con il tromba. Se non avrà qualcosa di meglio da fare, che certo, venire ormai è impegnatissimo a firmare autografi, è multitasking pure foto. Lui. Allora, chiudiamo allora con Nate Smith. Direi di ascoltare, naturalmente, prima di tutto, però, ci puoi raccontare un po' l'organico, la formazione, i musicisti con i quali ha realizzato questo Postcards from Everywhere? I Kinkfolk sono formati da Chris Bowers al tastiere e pianoforte, Jeremy Most alla chitarra, Jalil Shaw all'alto sax e al soprano, Fima Efron al basso e tutta una serie di guest che hanno voluto partecipare a questo primo album di debutto di Nate Smith, perché hanno suonato con lui e Nate Smith ha suonato per loro più che altro, che sono Dave Holland, Chris Potter e la nostra Gretchen Parlato. Sì, Lionel Luke anche c'è nell'album, esatto. Quindi perché rifiutare l'invito di Nate Smith che ha regalato loro groove all'infinito. Allora, chiudiamo questa puntata del Soundcheck proprio con Pages, brano con la partecipazione di Gretchen Parlato, alla quale abbiamo dedicato un Soundcheck qualche settimana fa, e poi Retold, se ce la facciamo con il tempo, perché sta per scadere il tempo a nostra disposizione, anche perché arriva l'informazione di Radio 24. Quando quindi ci vediamo? Noi ci possiamo vedere sabato prossimo alle 19:15, se non hai altri impegni tra il cinema e ci tutte sarò. Le altre cose che fai. Vieni? Ci sarò, sì. Dai, che ci sarà anche il tromba, sono sicuro. Quindi a tutti voi buona serata, buona musica, buon divertimento con Nate Smith, Kinfolk, Postcards from Everywhere, un'anteprima del Soundcheck di Radio 24. Grazie Gigi Telesforo. Grazie a te Silvia Barba, ti voglio bene. Anche io, molto ciao. Bene, molto bene.